adesso, come sapete, ci sono centinaia di migliaia di sfollati ancora che in questi giorni di tregua pensavano di poter rientrare non nelle loro case, perché appunto non ci sono più, pensavano di poter, sono andati a vedere che cosa era successo, però pensavano di poter ritornare lì per poter rimettere insieme la loro vita, se di vita si tratta, e invece i tre giorni, le 72 ore di tregua purtroppo non sono bastate, non sono state sufficienti, diciamo, per attivare, diciamo, questo processo. E con così dolore, tristezza, insomma, per loro, per tutti noi anche che seguiamo questa situazione, che appunto dobbiamo constatare ancora adesso, ecco, l'ultimo collegamento con loro l'ho fatto un paio di ore fa, e mi dicevano che hanno ripreso, insomma, i bombardamenti un po' da tutte le parti. Su Monte ci sono stati tantissimi aerei su tutta la striscia, e tantissime altre strutture di tutta la striscia che sono state buttate giù, come se non bastasse ormai, insomma, sono anche quelle decine e decine di migliaia le case, le strutture che sono state abbattute, quindi ecco, ancora adesso stanno continuando questo. La tregua non si è raggiunta, o il cessate il fuoco, così come era stato richiesto in particolare, insomma, dalla popolazione di Gaza, dal governo e da Hamas, che sta rispondendo ai bombardamenti di Israele. Era stato richiesto con delle richieste, diciamo, ben precise, e prima fra tutte quella di aprire il blocco e la chiusura della striscia di Gaza. Nel film viene data un'idea molto chiara di questo, di come sia forte, ma non da adesso, data purtroppo tanti anni, ormai sono 10 anni che la striscia è completamente chiusa, è una prigione dove appunto sia da una frontiera del sud che è Rafa verso l'Egitto, e del nord che è Erez verso Israele, ma anche il resto dei territori palestinesi tuttora occupati, appunto sia la popolazione che tutto il resto non può assolutamente muoversi, non può avere possibilità di uscita e di movimento. Ecco, questo che era il punto principale, così come lo era il ritiro delle truppe tuttora presenti intorno a tutto il confine della striscia, appunto questi punti non sono stati concessi da Israele, dallo Stato di Israele, quindi quello che è stato posto sul piatto da parte militare è la smilitarizzazione completa delle forze di Hamas, di Al-Qassam, che sono appunto l'armata di Hamas che risponde con i missili e ai bombardamenti. Ecco, l'unica richiesta che è stata fatta, l'unica cosa per Israele in questo momento accettabile, è soltanto la smilitarizzazione completa, senza dare nessuna garanzia alla popolazione che vive lì dentro, che non verrà di nuovo bombardata e che in ogni caso non verranno aperti i confini, quindi il destino è soltanto rimanere nella prigione. Ecco.